TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Volontario di protezione civile morto a Preone, condannati a un anno per omicidio colposo il sindaco e il coordinatore comunale. La nuova linea per la produzione di acciaio sostenibile presentata dall'ABS di Cargnacco comporterà una riduzione delle emissioni del 16%. Caro caffè, una crisi che investe una quarantina di aziende triestine, ecco come affrontano i rincari. Bilancio comunale a Trieste ritoccato, approvata la delibera, le polemiche tra maggioranza e opposizione. Teleriscaldamento per un centinaio di utenze da ottobre a Cervignano, ma la centrale a biomassa potrà arrivare fino a 2.000 famiglie. Cioccolata, passione non solo pasquale, le uova e altre goloserie nei segreti di un maestro pordenonese. 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Sono stati condannati a un anno per omicidio colposo il sindaco di Preone Andrea Martinis e il coordinatore comunale della squadra di protezione civile Renato Valent. La sentenza di primo grado è stata pronunciata questa mattina a Udine. La pena è stata sospesa. Durante un intervento di manutenzione nel luglio del 2023 era morto un volontario di 74 anni, Giuseppe De Paoli, travolto da un albero. Nel pomeriggio a Tolmezzo è in programma un'assemblea dei sindaci che annunceranno azioni di protesta. Condannati per omicidio colposo ad un anno, con pena sospesa, sia il sindaco di Preone, Andrea Martinis, sia il coordinatore dei volontari della protezione civile, Renato Valent. Dopo due ore di Camera di Consiglio, il giudice Faleschini Barnaba, presidente della sezione penale del Tribunale di Udine, li ha dichiarati colpevoli per la morte del volontario Giuseppe De Paoli, travolto da una pianta nel luglio 2023 durante il ripristino di una strada forestale. I due imputati sono usciti senza commentare. Anche oggi in aula i sindaci della Carnia. Alle 17 è indetta un'assemblea urgente in comunità di montagna, a Tolmezzo, per annunciare forti azioni di protesta. Hermes De Crignis, presidente della comunità di montagna della Carnia. Ed è vergognoso che ci sia stata una condanna in questo momento. Le modifiche normative che si sono succedute da luglio 2023 hanno portato alla soluzione per gli altri capi di imputazione, legati alla sicurezza sul lavoro, per i quali ora sono previste solo sanzioni amministrative. Aveva chiesto un anno e quattro mesi il PM Gondolo, per il quale tutta questa fibrillazione normativa non avrebbe prodotto poi effetti dal punto di vista della responsabilità penale. In questo momento non possiamo muoverci assolutamente, perché se questo è stato il risultato di un processo che doveva fare anche un minimo di chiarezza su quello che è il nostro modo di operare, anche a livello personale proprio, direi che siamo al punto di partenza. Attendono di leggere le motivazioni della sentenza, ma già preannunciano ricorso gli avvocati che avevano chiesto l'assoluzione. Alessandro Franco, avvocato difensore di Valent. È una decisione che secondo me segna molto il prosieguo. Ecco, se io fossi il responsabile di un gruppo comunale in questo momento, con queste premesse interromperei l'attività sicuramente. Andrea Ghidina, avvocato difensore di Martinis, assieme all'avvocato Mainardis. Quasi sicuramente presenteremo appello. Non è tanto la pena quella che ci preoccupa quanto il fatto stesso che il sindaco sia stato condannato e quindi che sia stato condannato in un certo senso il sistema di protezione civile. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Una rete illecita di commercianti di auto usate del tutto sconosciuti al fisco è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Palmanova, che ha denunciato 7 persone. Secondo le Fiamme Gialle sarebbero venuti pagamenti non tracciati per 1,5 milioni di euro. 5 gli evasori con oltre 600.000 euro sottratti alla tassazione. L'indagine ha consentito di bloccare anche 100.000 euro di erogazioni pubbliche, tra cui il reddito di cittadinanza. Le attività erano svolte attraverso canali informali, tra social network e passaparola, con pagamenti solo in contanti. I militari hanno ricostruito la rete fantasma incrociando le loro banche dati e gli annunci su internet durante un periodo di 5 anni. I temi del lavoro, una nuova linea a emissioni contenute entra in esercizio alla ABS di Cargnacco. L'azienda del gruppo Daniele ha presentato questa mattina i capisaldi della produzione di acciaio green. L'acciaio sarà ancora più sostenibile, la ABS di Cargnacco che investe si espande e aumenterà di un terzo la propria capacità produttiva a seguito dei lavori avviati oggi per una nuova linea che ridurrà del 16% le emissioni di anidride carbonica. L'azienda del gruppo Danieli ha presentato l'iniziativa in un contesto di grande incertezza e preoccupazione per imprese e famiglie, le prese con gli effetti della guerra nel Golfo. Vale 400 milioni l'investimento per quello che è stato chiamato impianto verde ibrido digitale. Si tratta del terzo forno elettrico dello stabilimento di Cargnacco. Digimelter è il nome che gli è stato dato, forno a carica continua che riscalda e rottame recuperando il calore residuo dei fumi. I lavori dureranno fino alla seconda parte del 2027. L'impianto avrà una grande sala di controllo unica con un elevato grado di automazione e si stimano all'incirca 200 assunzioni. Nessun addetto sarà a terra, un elemento che riduce i rischi di incidenti sul lavoro. L'investimento permetterà inoltre anche di realizzare un progetto di teleriscaldamento per la città di Udine con il recupero del calore della fabbrica. Cargnacco, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Come altre concessionarie aderenti all'associazione di categoria A, Escat Autostrade Alto Adriatico ha dato disponibilità a contribuire al contenimento dei prezzi petroliferi mediante la devoluzione delle royalties derivanti da subconcessioni di aree di rifornimento carburante presenti nelle proprie aree di servizio, lo ha annunciato la concessionaria autostradale, ricordando in una nota che sono 16 le aree di servizio gestite nella rete di competenza. La disponibilità, ha spiegato Autostrade Alto Adriatico, consiste nel contenimento del prezzo del carburante per 20 giorni fino a 5 centesimi di euro per litro, che si aggiungono alla riduzione di 25 centesimi di euro per litro delle aliquote di accise sui carburanti approvata dal Consiglio dei Ministri. Con questa azione coordinata con altri concessionari autostradali, ha spiegato il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, intendiamo sostenere l'intervento del governo e dare un segnale di vicinanza alle famiglie, ai lavoratori e ai pendolari che attraversano la nostra rete autostradale, soprattutto in un periodo come quello del Ponte Pasquale, contrassegnato da un incremento di transiti. Intanto il conflitto sta mettendo a dura prova il settore del caffè, che aveva già subito pesanti conseguenze con la guerra tra Russia e Ucraina. Solo a Trieste ci sono 40 aziende direttamente coinvolte tra torrefazioni, spedizionieri e imprese commerciali. A preoccupare, oltre ai costi dell'energia e dei trasporti, anche la crisi della petrolchimica, che rende problematico il reperimento dei materiali per gli imballaggi. C'è un mondo dietro la tazzina di caffè che beviamo ogni mattina in questo marzo 2026, con diversi conflitti alle porte, ce ne rendiamo conto di più. I conflitti avvengono in posti strategici per la produzione di energia e gas, ma anche per l'approvvigionamento di petrolio necessario a fare imballaggi. Arianna Mengardi, presidente dell'Associazione Caffè Trieste, che conta 135 anni di storia, 40 aziende, perché la plastica serve al caffè? Serve il caffè perché sicuramente il caffè non viene venduto sfuso, quindi servono gli imballaggi primari e servono poi gli imballaggi secondari. Nessuno magari ci pensa, ma con la chiusura dello stretto di Hormuz anche la plastica, che è un prodotto da petrolchimica, si è bloccata e quindi non arriva. E ci sono già fornitori, nostri fornitori, che ci avvisano che non possono accettare nuovi ordini. Nella sua torrefazione, Arianna, lavorate 12 miscele di caffè, il 60% robusta proviene soprattutto dall'Asia. Il caffè in generale arriva dal Vietnam, è il secondo produttore dopo il Brasile, quindi c'è caffè che non arriva. Con il conflitto che riguarda proprio la chiusura dello stretto di Hormuz, poi alcune aziende di navigazione hanno pensato di bloccarsi per un 10 giorni, proprio per capire dove avrebbe, quanto sarebbe continuato il conflitto e quanto si sarebbe allargato. Questi 10 giorni di fermo, soprattutto per i prodotti e le origini di materia prima caffè crudo che arrivano dai paesi asiatici, ha causato un ritardo che varia dai 30 ai 45 giorni per gli arrivi al porto di Trieste. Le torrefazioni poi sono aziende energivore, soprattutto consumano gas. Che bolletta vi aspettate qui prossimamente ad aprile? Sicuramente non ci aspettiamo quello che è successo nell'anno 2022 con l'inizio del conflitto russo-ucraino, però non abbiamo ancora degli aumenti per quanto riguarda il mese di febbraio, però con il mese di marzo ci si aspetta, secondo i dati che abbiamo in mano in questo momento, un aumento del 28%. Muggia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla politica. Approvata in Consiglio Comunale a Trieste la delibera sulla variazione di bilancio. L'esito del voto non cancella le polemiche che avevano riguardato soprattutto le risorse traslate dal 2025. Variazione di bilancio da poco meno di 40 milioni di euro al Comune di Trieste per il triennio 2026-2028. Il Consiglio l'ha approvata ieri sera a maggioranza con 23 voti favorevoli della coalizione del sindaco di piazza e 13 contrari dalle opposizioni. I quasi 40 milioni arrivano in parte da nuove risorse disponibili, in gran parte da poste di bilancio del 2025 che fanno riferimento ad opere da avviare o da proseguire. Come ha spiegato l'assessore alle politiche finanziarie Everest Bertoli, molte delle poste saranno traslate dal 2025 all'anno in corso. La cifra complessiva andrà per quasi 6 milioni alla spesa corrente, i costi ordinari di funzionamento dell'ente, e per poco più di 34 milioni alle opere in conto capitale, le realizzazioni appunto. Fra esse, lo stesso Bertoli ha citato 1,2 milioni più altrettanti dalla regione per l'Urban Center, 1 milione per la linea elettrica del tram di Opicina, 1 milione per il sistema di filtraggio dell'acquario marino e 255 mila euro per gli stabilimenti balneari della Lanterna e dei Topolini per l'avvio regolare della stagione. La traslazione delle poste di bilancio dall'anno precedente a quello in corso ha sollevato critiche. Paolo Altin, lista Russo, ha parlato di minestra riscaldata, un segnale che i soldi ci sono ma l'amministrazione non è in grado di spenderli. Per il PD, con Rossana Pucci, sono state destinate poche risorse alla manutenzione di strade e marciapiedi, mentre Riccardo La Terza, adesso Trieste, dopo aver parlato di un'operazione di bilancio che non toglie e non aggiunge, ha ricordato i 30 milioni di euro che ha definito ostaggio perché bloccati in attesa di una copertura da Roma sul progetto della cabinovia. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Una rete di teleriscaldamento che servirà un centinaio di utenze pubbliche, residenziali e del terziario entrerà in esercizio nel mese di ottobre nel comune di Cervignano. Sarà gestita da Edison Next, società del gruppo Edison. La rete sarà alimentata esclusivamente da biomassa legnosa da filiera corta locale e soddisferà un fabbisogno termico annuo complessivo di circa 16 gigawattora. A fronte di un eventuale incremento delle richieste di allaccio potrebbe arrivare a circa 20 gigawattora corrispondenti ai consumi di oltre 2.000 famiglie. L'energia prodotta dall'impianto, alimentato al 100% da fonti rinnovabili, consentirà un risparmio di circa 5.500 tonnellate di CO2, garantendo alle utenze allacciate un risparmio sulla spesa di riscaldamento tra il 10 e il 20% rispetto ai costi attuali. La centrale di produzione sarà collocata in via Grado, lontana dal centro abitato e nella zona sud della città, dove saranno installati anche una caldaia di backup di potenza termica pari a 7 megawatt e un serbatoio di accumulo termico da 1500 metri cubi. Il Circolo Legambiente Prealpi Carni, che ha organizzato un'assemblea pubblica in merito allo sghiaiamento del lago di Barcis, approvato lo scorso settembre dalla Conferenza dei Servizi, che prevede la rimozione di sedimenti nel torrente Cellina a nord dell'abitato di Barcis, passando per il centro abitato, con riporto a sud e a valle del ponte di Ravedis. Il costo dell'operazione è stato stimato come di poco superiore ai 7 milioni di euro per l'asportazione di poco meno di 290 mila metri cubi di ghiaia. Un'iniziativa che, a detta del circolo, è da considerare solo emergenziale perché non riguarda l'intera strada del fiume e la sua riqualificazione, che includerebbe interventi come la riduzione della portata delle falde e delle risorgive. Lo sghiaiamento produce poi inquinamento ambientale, sempre a detta del circolo, e anche inquinamento acustico, oltre al dissesto idrogeologico degli edifici adiacenti all'area di lavoro, e dovrebbe essere reiterato nel tempo. Per recuperare il bacino idrico lacustre, il circolo propone invece soluzioni strutturali quali una galleria dei bypass. Appuntamento il giorno 16 aprile, che è un giovedì, a Malnisio, all'auditorium della ex centrale, alle 20:30. Il meteo: abbiamo cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 12 gradi, a Udine 14, A Gorizia ci sono 13 gradi e 5 decimi, a Pordenone 12, nell'area montana a Tolmezzo 10 e 5 decimi, a Tarvisio 7 e 5, a Sappada 1 grado, a Forni di Sopra 6 e in quota sullo Zoncolan meno 3, sull'Ussari 3 gradi e mezzo sotto lo zero, sulla costa a Lignano 14 e mezzo, a Grado 11 gradi. Ora vediamo le previsioni. A cura dell'ARPA, per oggi avremo cielo in prevalenza variabile, nel pomeriggio vento sostenuto da nord-est su tutta la regione, con possibili raffiche forti sulle prealpi Giulie e i colli orientali. Domani cielo variabile, su tutta la regione soffierà bora o vento da nord-est da moderato a sostenuto, a Trieste dal pomeriggio possibili raffiche intorno ai 100 orari. Ancora cronaca, sono state ritrovate in un campo alla periferia ovest di Udine le attrezzature rubate nei giorni scorsi dal furgone di un'azienda che i dipendenti avevano lasciato in modo regolare, parcheggiato in una via di Tavagnacco durante la pausa pranzo. Si tratta di 7 cassette contenenti diversi trapani, avvitatori e altro materiale professionale, la cui scomparsa era stata subito denunciata dai danneggiati. Le ricerche dei carabinieri hanno portato al ritrovamento della rifurtiva del valore di circa 17.000 euro già restituita all'azienda. Sono in corso indagini per identificare gli autori del furto. Un 70enne friulano è stato denunciato dagli uomini del corpo forestale per aver appiccato il fuoco a un cumulo di materiali, fra cui materiale verde, ma anche alcuni pneumatici fuori uso. È successo a Buia, dove i forestali sono intervenuti e allertati da una segnalazione quando il fumo era già visibile a distanza. La normativa vigente, ricordano i forestali, punisce severamente chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, prevedendo pene detentive e sanzioni pecuniarie. I pneumatici, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, richiedono procedure di smaltimento rigorose attraverso operatori specializzati. Si intitola 50 anni dentro il cambiamento, il convegno organizzato per ripercorrere mezzo secolo di cooperazione nei servizi, nella logistica e nel lavoro di Astercoop, cooperativa di logistica con sede a Udine, a cui interverranno il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini e di Legacoop Friuli Venezia Giulia Michela Vogrich, con gli assessori regionali Alessia Rosolen e Sergio Midiovini. Appuntamento a Udine nel Salone del Parlamento del Castello alle 18. Al centro del convegno i mutamenti del paese e del territorio, per raccontare un'esperienza che ha affrontato cambiamenti economici e sociali. Al presidente di Astercoop, Claudio Macorigi, abbiamo chiesto come è cambiata l'attività rispetto ai tempi dalla fondazione. 50 anni sono veramente tanti e quindi è cambiato veramente il mondo. Non si parla più di semplice manodopera, ma di impresa complessa, soprattutto nel mondo della logistica. Sono cambiate le organizzazioni, sono cambiati i clienti, è cambiato il mercato, sono cambiate le tecnologie e bisogna lavorare per processi, bisogna lavorare per qualità. Quindi è cambiato un mondo e essere stati capaci di trasformarsi nel tempo e comunque darsi delle finalità di costruire all'interno di questa attività un patrimonio che rimane patrimonio comune, perché la particolarità della cooperativa è che non ha termine. Noi siamo un passaggio nei primi 50 anni e presto lasceremo ad altre generazioni questa conduzione di impresa. È cambiato molto, i problemi oggi sono un mondo che chiede innovazione, chiede visioni sempre più ampie, un'organizzazione sempre più precisa e tecnologica, tenendo sempre conto anche dei temi e criteri degli ESG. Quindi significa essere in un momento in cui le aziende devono investire, bisogna avere la capacità per poter investire, quindi le risorse, e questo è un tema non banale. Viene richiesto sempre di più alle imprese di essere preparati e bisogna ovviamente darsi le modalità per fare questo. Bisogna quindi avere una visione, un futuro, e io dico sempre, per noi potrebbe essere diventare un ecosistema significa un sistema integrato di persone, tecnologie e processi che insieme lavorano per creare valore. Ecosistema ha un significato anche che nessuno si salva da solo, ecco che torniamo al concetto di cooperativa, perché poi questa cooperativa nel tempo ha avuto diversi momenti di criticità e si è salvata perché le persone non sono rimaste sole, hanno fatto squadra e hanno trovato della modalità di uscita. Prosegue a Muggia la realizzazione del nuovo hub retroportuale e logistico nella zona delle Noghere, che nelle prossime settimane vedranno anche la realizzazione in strada delle Saline di un nuovo percorso ciclabile. Per consentire i lavori in corrispondenza del cantiere sono stati disposti un restringimento di carreggiata con il conseguente divieto di sorpasso e l'istituzione di limiti di velocità di 30 e 50 orari in luogo di quelli precedenti di 50 e 70 rispettivamente. L'ordinanza richiesta dall'autorità portuale resterà in vigore fino al 30 giugno. Cioccolata, che passione, non solo gustarla ma anche prepararla secondo la ricetta che ogni maestro cioccolatiere custodisce con cura. Abbiamo cercato di capire qualche segreto a uno di loro in un momento in cui la cioccolata entra in tutte le case con le uova pasquali. C'è bisogno di colore, in questo momento la gente ha bisogno di colore e ha voglia di una Pasqua gioiosa. Uova di cioccolato come opere d'arte spennellate di colore o impreziosite di decorazioni floreali. Nel cuore storico di Pordenone si lavora a pieno ritmo per realizzare dolci creazioni pasquali in un laboratorio di cioccolateria dove tradizione e innovazione si tengono per mano. Fino a 300 kg di cioccolato, lavorato ogni giorno in uno spazio rinnovato di 800 metri quadrati, sviluppato su tre piani. Anima della realtà artigianale eccellenza friulana, il maestro cioccolatiere Giuseppe Faggiotto. La materia prima è al primo posto per noi, quindi si cerca sempre di trovare le materie prime di qualità, lavorarle bene e in questo momento comunque il fondente rimane il padrone del cioccolato. Dopo anni di forti aumenti il prezzo del cacao è sceso, ma ci vorrà del tempo prima che il calo si veda anche nel prodotto lavorato. Il costo della materia prima purtroppo è andata su 2 anni fa, adesso è risceso un'altra volta e ho visto che i prezzi non ne hanno cambiati, comunque in questo momento qui il cioccolato è tornato alla normalità. Nel laboratorio pordenonese lavorano una decina di cioccolatieri e dalle loro mani esperte che nascono le delizie pasquali. Lei da quanti anni fa questo mestiere? Ormai sono 5 anni che lavoro qua e mi piace tantissimo questo lavoro. Qual è la parte più delicata di questo lavoro? Bisogna essere tanto precisi, volenterosi soprattutto, e bisogna avere passione. L'azienda familiare conta anche sulla nuova generazione con l'impegno dei 2 figli che aggiungono prospettive all'attività imprenditoriale. Filippo Faggiotto. A livello chimico, a livello scientifico è un fascino scomporre la materia prima, trovare delle peculiarità insomma che fanno sì di poter creare delle cose mai viste prima. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da pagina della cultura e degli spettacoli, a Trieste al Politeama Rossetti tornano stasera i danzatori en travestì dei Ballet Trocadéro, compagnia di danza classica al maschile che mette in scena con divertenti parodie le convenzioni del balletto classico tra volteggi sulle punte e sontuosi tutù. A Udine il Teatro Nuovo ospita invece Radio Argo Suite, che l'attore e regista Peppino Mazzotta ha tratto dall'Orestea di Eschilo. Nelle figure degli eroi greci e troiani riecheggiano sinistramente quelle della storia recente, spiega Mazzotta. Tiranni moderni in giacca e cravatta, colonnelli in divisa, oppressi da manie tragiche e ossessioni perverse, proclamano guerre in nome di ideali fasulli. Si celebra quest'anno il centenario della nascita di Miles Davis, uno dei grandi protagonisti del jazz mondiale. A Pordenone lo racconterà una mostra immersiva che sarà aperta al pubblico a Villa Cattaneo dall'8 maggio al 12 luglio. Oggi un primo assaggio per la stampa. Un viaggio innanzitutto sonoro, ma non soltanto, nel percorso di una vera e propria icona della musica del Novecento. Al via il prossimo 8 maggio, Miles Davis 100, Listen to This, è la grande mostra che il Comune di Pordenone e il festival Jazz Insieme dedicano a un artista poliedrico che ha trasformato i paesaggi sonori della cultura contemporanea. Enrico Merlin, curatore della mostra. Miles Davis comunque quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, è nato nel 1926 e rappresenta una delle figure più importanti della cultura non solo americana. Partiamo da 2 grosse collezioni, una è la mia personale e l'altra quella dell'American Jazz Museum di Kansas City, e dopo ci sono moltissimi contributi personali di collezionisti. Questa mostra è principalmente una mostra da ascoltare, ci sono centinaia e centinaia di dischi, ma non solo, cioè tutta la sua immagine, lui è stato anche un attore, è stato un pittore, quindi lo troviamo declinato nelle varie tipologie. La mostra, che avrà una sala interamente dedicata all'ascolto di tutta la musica registrata da Miles Davis, sarà ospitata negli spazi della settecentesca Villa Cattaneo, destinata a diventare la sede del Polo del Futuro Musicale, uno dei progetti pilastro di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, di cui questa esposizione, la prima allestita nella villa, è un'anticipazione. Francesco Simoni, allestitore della mostra. La mostra andrà a affrontare tantissimi aspetti di Miles Davis. Non è una mostra cronologica, dal punto di vista anche estetico e mio e di progettazione. Vedrete delle trasparenze, vedrete dei livelli diversi. Pordenone, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Edizione redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:55, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.